Ecco, ed ora la presentazione del professor Karl-Heinz Menke dell'Università, della Facoltà Teologica dell'Università di Bonn, dove è docente di teologia dogmatica. Devo ringraziare il professor Menke anche e soprattutto per il fatto che, malgrado i suoi molteplici impegni e la difficoltà di essere con noi più frequentemente da una sede così dislocata per noi, ecco, ha accettato di essere membro attivo della nostra commissione scientifica per il progetto Rosmini, e questa per noi era una cooperazione estremamente desiderata, direi per noi anche al limite della necessità, perché il professor Menke si qualifica nell'ambiente culturale tedesco veramente come il miglior conoscitore e colui che professa una conoscenza costante e un'attenzione viva per il pensiero di Rosmini, e a noi tutti sta molto a cuore riuscire a comunicare il pensiero di Rosmini con l'ambito culturale germanico, dove in realtà la conoscenza di Rosmini attende ancora di essere maggiormente approfondita. Il libro principale in questo riguardo del professor Menke, intitolato Vernunft und Offenbarung nach Antonio Rosmini, dunque Ragione e Rivelazione secondo Antonio Rosmini, pensiamo di tradurlo presto anche in lingua italiana, proprio perché questa osmosi e questa comunicazione diventi sempre più reale e effettiva. Ancora devo aggiungere la mia gratitudine per la disponibilità che il professor Menke ci ha dato per essere con noi anche nella riflessione e nella ricerca per la preparazione del prossimo convegno rosminiano del 1997. Sono felice di dare a lui la parola, anche perché, pur molto più giovane del sottoscritto, è uscito un po' dalle stesse scuole in cui ho avuto grazia di passare, e quindi anche un certo senso di amicizia che di cui egli sta continuamente dandoci prova. Il titolo della sua relazione è in tedesco: Rosminis Beitrag zur Frage nach der Verantwortung des Glaubens vor der Vernunft, il contributo di Rosmini sulla questione circa la risposta della fede di fronte alla ragione. A lui la parola. Non solo a causa dell'amicizia e della collegialità con il professore Verweyen parlo in tedesco, ma anche a causa del mio italiano, che è terribile. Per questo credo che la traduzione simultanea di Christiane Lierman e di professore Renna aiuta di capire la mia relazione. Dies hat uns Hans-Jürgen Verweyen in seinem einleitenden Referat sehr anschaulich ins richiamato in maniera molto vivace alla coscienza il professor Hans-Jürgen Verweyen nella sua relazione. La fede del fatto che l'assoluto sia comunicato nel finito del mondo e della storia deve apparire ad una forma di pensiero plasmata dal nominalismo di Heidegger, Gadamer e Wittgenstein come irragionevole. Credere in una nostra società tollerante e pluralistica si può credere tutto, e anche le pretese di assolutismo vengono accettate se non si presentano come aggressive, e secondo le affermazioni di Boccaccio ci sono persone che vengono ritenute come coraggiose perché portano e giocano fino alla fine ciò che hanno ritenuto come dovuto. Il tentativo di in questo panorama spirituale, dove la pretesa di assolutezza del cristianesimo è stata sostituita dalla teoria del consenso e della verità, di giustificare questo una volta per tutte dell'evento di Cristo sembra di essere al di fuori del tempo, come i dinosauri che sono estinti ma erano molto divertenti. Non sapevo che qui a Rovereto fossero così importanti come fossili piacevoli. Antonio Rosmini ist einer der Denker, Antonio Rosmini è uno dei pensatori che nel tempo della sua vita è al di fuori del suo tempo, perché pensava oltre il suo tempo, e era al di fuori del suo tempo come molti dei filosofi e teologi che vengono sentiti come piacevoli fossili. Si deve comunque dire in una riunione di specialisti Rosmini che tendono a venerarlo, a dire che la ricerca su Rosmini fino ai tempi recenti si era fissata sul suo eroe e quindi aveva portato poche conoscenze alla sua originalità. Se la nostra assemblea vuole sviluppare questo tema delle questioni della teologia contemporanea nell'orizzonte del pensiero di Rosmini, allora dobbiamo confrontare Rosmini col pensiero della nostra teologia contemporanea. Va da sé che un pensatore del XIX secolo non può essere consapevole delle problematiche del presente, ma forse proprio per questo è un interessante partner di discussione, perché i suoi argomenti non sono determinati dalle questioni e dalle finalità del discorso attuale. Non per nulla Hans-Jürgen Verweyen ha definito la questione sulla responsabilità filosofica della fede di fronte all'unicità di Cristo come la domanda centrale della teologia fondamentale. Non per nulla gli ultimi incontri dei teologi sistematici di area tedesca, i protestanti a Vienna, i cattolici a Monaco, Freising, hanno sviluppato questa questione come la primaria sfida della teologia contemporanea. A Monaco, Freising si è trattato soprattutto della tesi delle cosiddette teologie delle religioni pluralistiche, specialmente le tesi di John Hick e di Paul Nitta. Vorrei affrontare questa questione della unicità di Cristo, questione della teologia contemporanea, e rivolgerla a Rosmini. Egli non problematizza in nessun luogo il una volta per tutte di Cristo, dà però indirettamente una risposta notevole sulla unicità del Redentore. La mia conferenza ha, in base a questa strutturazione, due parti. La prima confronta l'orizzonte delle questioni attuali con il pensiero di Antonio Rosmini, la seconda parte tenta di fare una determinazione fondamentale della sua rilevanza per la storia della responsabilità della fede di fronte alla ragione. Parte prima la risposta di Rosmini alla questione dell'unicità di Cristo. Questa risposta vorrei sviluppare in tre passi. All'inizio si deve porre un'analisi almeno breve della sua presupposto di filosofia trascendentale, seguiranno poi alcune note sulla sovrannatura e la natura sovrannatura e rivelazione, e poi alcuni passi sulla conseguenza di questi pensieri di Rosmini. Primo punto, le premesse di filosofia trascendentale di Rosmini. Se si trascurano momentaneamente i molteplici influssi e discussioni che hanno condotto Rosmini al sviluppo della questione sull'origine delle idee, se si prende in esame la questione centrale della sua ricerca, si può dire semplificando che egli vuole conciliare Kant con Thomas, e con questo programma è il primo pensatore italiano che bei dem Treffen einer Spezialistengemeinde wie der unsrigen, come? Scusate, avevo staccato avevo erroneamente staccato il tasto. Allerdings, bei dem Treffen einer Spezialistengemeinde, in un incontro di specialisti come quello attuale, si ha sempre il pericolo di sopravvalutare il proprio eroe. Perciò, diciamo fin dall'inizio, Rosmini ist in seiner nella sua lettura e interpretazione di Tommaso è meno preciso che nei suoi giudizi su Kant e gli idealisti tedeschi Fichte, Schelling e Hegel. E ovviamente non sapeva ancora nulla della interpretazione di Fichte della Hochschule o della libertà, filosofia della libertà di cui si discute oggi su Fichte. Non si deve però rinfacciare una cosa a Rosmini, ovvero sia che avrebbe sottovalutato le conseguenze della svolta dell'epoca moderna verso il soggetto e di quella problematica dell'autonomia che Kant ha formulato contro Descartes. Rosmini è insieme a Kant l'idea che la facoltà dell'uomo che Descartes descrive di porre in questione tutto ciò che è contingente non è alcuna prova dell'esistenza di Dio oppure della partecipazione dell'uomo all'assolutezza di Dio. Non vuole premettere in maniera critica, ma argomentare in maniera unicamente filosofico-trascendentale. Perciò, nel suo nuovo saggio sull'origine delle idee, si rivolge contro le premesse immotivate dei sensualisti e degli innatisti. Tra gli ultimi non annovera soltanto Descartes, ma anche Kant, perché questo non motiva come mai le native forme di visione e categorie, ovvero i giudizi sintetici a priori, garantiscano verità nel senso di corrispondenza fra pensare ed essere. Rosmini segue il filosofo di Königsberg fino alla tesi che ogni conoscere si basi su una sintesi. Egli però distingue, ispirato dalla sua intensa lettura di Tommaso, tra l'una sintesi originaria e le molti e molti giudizi sintetici a posteriori. Come sintesi primitiva indica il fatto che ogni uomo non nota ciò che i suoi sensi colgono soltanto come un animale, bensì come qualcosa che non è necessario eppure di fatto esiste. Cioè, ogni conoscenza riflessa quindi a posteriori ha alla base la sintesi che Rosmini chiama il sentimento fondamentale. Non si intende una percezione che l'uomo ha, bensì ciò che egli è già prima di ogni conoscenza, ovvero la creatura che con col suo rimando alla infinitezza, sentimento fondamentale corporeo, al tempo stesso è rimandato oltre il finito, sentimento fondamentale intellettivo. Visto più da vicino, il sentimento fondamentale è un legame indissolubile, una sintesi che anche all'animale. Sein Leben lang hat Rosmini sich bemüht, das, was er in seinen frühen Schriften Form der Wahrheit und schließlich Idee des Seins nennt, von Missverständnissen abzugrenzen. Delimitare da incomprensioni ciò che chiama la forma della verità e infine l'idea dell'essere. Ciò che deve oggi valere come fuori di dubbio è la confrontabilità dell'idea rosminiana dell'essere con quello che Tommaso chiama l'essere, ovvero non ciò che ogni comprensivo dei concetti univoci, ma ciò che ogni essere collega con ogni altro essere che al tempo stesso lo distingue da ogni altro essere. L'idea dell'essere è non è un concetto nel senso univoco o equivoco, l'essere è analogo, ove con Dan Scott dobbiamo chiederci se non sia se ogni analogicità pensabile non implichi un elemento univoco. L'ultima di queste cose Rosmini l'ha vista molto chiaramente in quanto ha descritto come una pura causa formale della nostra esistenza ciò che ci fa esistere. Ma forse ciò che Rosmini descrive come idea dell'essere lo possiamo trovare quando realizziamo che egli rappresenta un primato della ragione pratica rispetto a quella teoretica, e questo non solo nella sua antropologia al servizio della scienza morale oppure nel suo trattato della coscienza morale, bensì già nel nuovo saggio. Infatti Rosmini ripete sempre di nuovo che l'uomo, dato che è spirito del mondo, ovvero sintesi primitiva, non realizza la propria sintesi tra sentimento fondamentale corporeo e sentimento fondamentale intellettuale, ovvero il suo rimando alla incontingente, non con un salto di fuori del mondo e della storia, non fuggendo dalla storia e mediante l'astrazione. Non esiste per lui alcuna idea che sarebbe indipendente dalla realtà concreta, ove la conoscenza ci sarebbe, bensì la conoscenza è sempre assenso, e la conoscenza non è un'astrazione, un'intuizione, ma un atto dell'intera persona che in attuazioni sempre nuove della sintesi primitiva si realizza tra il rimando a ciò che è contingente, il sentimento fondamentale corporeo, e riferimento all'assoluto, il sentimento fondamentale intellettuale. Conoscere è prassi, è assenso, e qui si trova il concetto fondamentale per Rosmini della inoggettivazione. Il soggetto conoscente stesso deve lasciarsi trarre fuori continuamente dal suo rimando dell'essere all'assoluto e quindi al totalmente altro, dalla propria soggettività, così che l'altro possa essere compreso e conosciuto come compiuto, e in questo senso come oggettivo. L'idea dell'essere riempie dunque, nella teologia di Rosmini, adempie una funzione simile a quella della legge morale nella critica di Kant della ragione pratica. L'idea dell'essere è totalmente indipendente da ogni comandamento di vieto divino, da ogni norma o legame o ethos definito. Rosmini parla di una assoluto imperativo alla giustizia che ovunque viene realizzata, dove il singolo soggetto rinuncia al suo farla finita con gli altri. Perciò l'amore è l'atto nel quale il soggetto si oggettiva in una maniera particolarmente intensa. Per Rosmini è l'unica vera forma del conoscere reale. E penso che Giuseppe Lorizio svilupperà questa tesi nella sua relazione di venerdì sulla metafisica della carità. Passo al punto B, il rapporto di natura, sovrannatura, ragione e rivelazione. Prima di passare sulla base di questa analisi alla risposta delle questioni poste dalla prelusione sull'unicità di Cristo, vorrei chiarire che la teologia di Rosmini nel suo complesso non vuole essere altro che l'espressione di una stretta congruenza tra la rivelazione cristiana e la ragione naturale, ovvero la ragione filosofica autonoma. Ancora prima del fondatore della cosiddetta scuola di Tubinga, Johann Sebastian von Drey, e comunque indipendentemente da questo, Rosmini si rivolge contro il modello di rivelazione teoretico-istruttivo. Con ciò ha soprattutto di mira le dottrine delle tradizionalisti francesi come De Bonard, Maistre de Lamennais. Antonio Giordano in una monografia ha rappresentato quanto in dettaglio Rosmini si sia occupato con ciascuno di essi. Rimando qui alla letteratura secondaria e anche alla mia dissertazione, vorrei però dire quanto segue. Obwohl Rosmini der traditionalistischen Sprachphilosophie manchen positiven Aspekt abgewinnt, dalla filosofia del linguaggio tradizionalistica alcuni aspetti positivi, giunge ad un rifiuto molto chiaro della tesi che quella frontiera tracciata da Kant per la ragione naturale e poi spezzata o possa essere spezzata, superata soltanto quando Dio istruisce l'uomo in maniera sovrannaturale. Anche nel caso che questa istruzione sovrannaturale venga ridotta a una rivelazione primitiva della quale sono interpretazioni più o meno fedeli tutte le religioni della storia del mondo, non viene tolto l'errore del tradizionalismo, ovvero il pensiero su due piani: da una parte una ragione che può essere pensata soltanto come immanente, dall'altra una rivelazione che può essere creduta ma niente affatto vista come ragionevole. Nel suo scritto del Divino della Natura, Rosmini ha spiegato che il fenomeno che ha chiamato forse in maniera un po' infelice con il termine di idea dell'essere, conduce la ragione naturale fino alla convinzione che sia sovrannaturale tutto ciò che l'uomo non può raggiungere da se stesso a nessuna condizione oppure realizzare o perfezionare, che sovrannaturale sia però al tempo stesso quella realtà che si deve donare, ovvero comunicare agli uomini affinché l'uomo non resti quell'essere assurdo che deve trascendere tutto ciò che è condizionato senza però mai raggiungere quell'assoluto a cui tende. In questo punto Rosmini anticipa alcuni pensieri importanti di Maurice Blondel, perché quelli dice con parole quasi uguali sul sovrannaturale: è necessario ed è indisponibile, assolutamente impossibile, assolutamente necessario per l'uomo. Questo è proprio il concetto del sovrannaturale. Il gesuita Francesco Bruno, ancora molto debitore del neotomismo, rinfaccia al Roveretano in un testo del 1952 prove per l'esistenza della Trinità in Rosmini una riduzione razionalistica della rivelazione sovrannaturale e si richiama con ciò all'enciclica Humani Generis apparsa nel 1950. Più esattamente Bruno ammonisce che Rosmini pone la fede nella Trinità di Dio come premessa per la soluzione dell'antinomia della conoscenza naturale, e di fatto proprio ciò è quello che afferma Rosmini, ovvero che la ragione naturale non deve disperare della sua rimando a quella assoluto per lei raggiungibile proprio se Dio c'è e se Dio è trinitario, ovvero se può comunicare se stesso all'altro. In nessun luogo però Rosmini deriva dalle antinomie della ragione naturale che esista di fatto davvero il Dio trinitario. Egli afferma soltanto che l'uomo teso tra la finitezza e l'infinitezza nell'autorivelazione del Dio trinitario riconosce ciò che deve essere affinché l'uomo possa divenire ciò che deve essere, che esista Dio e che Dio sia trinitario deve essere creduto, ma questa fede non è una fede cieca, bensì implica la conoscenza di una mirabile convenienza tra rivelazione e ragione, tra sovrannatura e natura, di cui ha parlato soprattutto Stagliano nella sua dissertazione su Rosmini. Poiché Rosmini stesso deriva la parola deontologia, ovvero deontologico, dal greco todeon, ciò che deve essere affinché possa essere ciò che deve essere, nella mia dissertazione ho fatto la proposta di definire teologia fondamentale l'apologetica di Rosmini unendola all'attributo di deontologica. Così si può comunque esprimere che il sovrannaturale per Rosmini come per Blondel è la realtà che per l'uomo risulta assolutamente necessaria, todeon, che da lui però non può essere raggiunta ovvero attuata. Con Giuseppe Lorizio vorrei parlare non solo di un cristocentrismo della teologia bensì anche della filosofia di Rosmini. poiché ciò non contraddice in alcun luogo al carattere strettamente filosofico trascendentale della via regressiva. La filosofia di Rosmini è cristocentrica perché essa esige l'assoluto nel contingente. La cosiddetta via progressiva del pensiero rosminiano è aperta al tentativo di presentare la fede cristiana come risposta alle questioni e antinomie della ragione naturale. Con il suo ambizioso piano di una enciclopedia sistematica, Rosmini ha considerato tutti gli ambiti del sapere umano nella luce della rivelazione cristiana ed è voluto dimostrare in modo tale che la fede al Dio Trinitario e alla sua autocomunicazione in Cristo non soffochi gli sforzi della ragione naturale, bensì li esplichi. Questo lo ho mostrato nel mio lavoro riguardo gli ambiti dell'etica, della sociologia e della pedagogia, che le riflessioni corrispondenti siano troppo animate in dettaglio dalla retrospettiva del XX secolo e non soltanto dalle verità centrali della fede cristiana, bensì anche dimostrare la Chiesa cristiana cattolica come la più salvifica ragionevole per gli uomini non cambia nulla al fatto che Rosmini abbia riconosciuto con molta chiarezza perché un senso in sé non è anche un senso per me e può essere visto soltanto all'esterno in maniera fideistica e non dalla propria compreso dalla propria stessa ragione. L'autocomunicazione dell'assoluto nel contingente, ovvero l'autorivelazione del Dio Trinitario in Gesù Cristo, non è per Rosmini un piano sovrannaturale, al di sopra di quello naturale, quindi qualcosa che potrebbe essere anche di cui l'uomo potrebbe essere privato, bensì una unica realtà che ha una sua assoluta, un suo assoluto rimando al totalmente altro. Perciò Rosmini sviluppa la sua analisi della fede già dal punto di vista terminologico in uno stretto parallelo alla propria fenomenologia della ragione e dunque corrisponde al sentimento fondamentale naturale un sentimento fondamentale soprannaturale. E come Rosmini stesso dice, questa espressione può essere fraintesa, ma con questo parallelo vuole ribadire soltanto che l'assunzione dell'autorivelazione del Dio Trinitario si aggancia alle medesime premesse antropologiche come la percezione di tutto ciò che è finito. Nel corso della sua via regressiva, Rosmini descrive dal punto di vista puramente fenomenologico che tutto quell'altro che si trova di fronte al Dio conoscente è un'esigenza imperativo ad una oggettivazione assoluta, che l'uomo assolutizza il contingente se non lo riconosce nella sua contingenza, dunque lo trascende verso l'assoluto. Perché ciò che Rosmini chiama l'idea dell'essere non è indipendente dalla situazionalità dell'uomo nel mondo e nella storia, bensì è soltanto soltanto nel contingente può essere conosciuto l'assoluto, si pone con particolare conseguenzialità quella questione di Lessing accennata da Verweyen, ovvero se un essere contingente possa di per sé occuparsi e interessarsi di ciò che è assoluto. Rosmini non si è espresso in nessun punto su quali siano le premesse per cui una realtà storica possa essere premessa di assolutezza. Egli parla però di quell'obbligo che viene percepito in ogni percezione concreta di relativizzare il contingente quale contingente, ovvero di trascenderlo. Ed egli mostra questo trascendere come nostalgia, ovvero annaspare verso una congruenza totale del reale con l'ideale, che l'uomo non palpi con questa nostalgia costitutiva nel vuoto, diviene per una certezza quando l'assoluto non è soltanto un dovere come idealità, bensì come una realtà che si fa incontrare. Giungo così al punto C della prima parte, gli argomenti di Rosmini per la unicità di Cristo. Fino a questo corso di pensieri Rosmini si comprende unicamente come filosofo. Fino a qui giunge la sua via regressiva. Solo dopo che ha condotto la sua analisi filosofica trascendentale fino a questo punto, parla di un Dio trinitario, con un'espressione tedesca, è il Dio che è tutto nel tu e che perciò si può comunicare all'altro. Il Dio trinitario è nell'evento dell'incarnazione, è così oggettivazione realizzata al punto tale che nell'altro di se stesso, nel finito, proprio in una determinata creatura, ovvero nell'uomo Gesù Cristo, è se stesso, in maniera tale che questa creatura non venga eliminata oppure assorbita, bensì al contrario, venga liberata a se stessa oppure condotta a perfezione. La sentenza dalla Cristologia di Rosmini, che nel 1897 è stata condannata dal decreto postobitum di Papa Leone XIII, Denzinger-Hünermann 3227, esprime che l'uomo Gesù, mediante l'autocomunicazione del Dio trinitario, viene così abilitato ad essere un io che si trova presso il tu del Padre, ovvero che si può parlare di un'unione ipostatica tra il figlio intertrinitario e il figlio dell'uomo. Questo Gesù è unico perché l'assoluto, se si comunica nella storia, si comunica in maniera assoluta, ovvero in modo insuperabile per tutto il futuro, in una maniera una volta per tutte. E questa unicità può essere creduta perché Gesù di fatto si è manifestato come l'assoluto nel contingente. Per tale motivo Rosmini spiega Cristo nel suo scritto originale, la storia dell'amore ricavata dalle Sacre Scritture, nella sua famosa opera sulle cinque piaghe della Chiesa e soprattutto nella sua monumentale Teodicea, come la persona perfetta, compiuta, che si oggettiva nel finito, nel contingente del mondo e della storia in maniera assoluta, come Dio che è in maniera talmente assoluta presso l'altro che si lascia piuttosto crocifiggere dal peccatore piuttosto che lasciarlo. Questo io che è tutto presso il tu arriva fino al punto di arrivare al contrario di se stesso, al contrario dell'amore, ovvero il peccato e l'odio crocifisso. Come Tommaso d'Aquino, Rosmini non ritiene che l'incarnazione sia una risposta di Dio al peccato dell'uomo, perché il peccato per Rosmini è sempre il rifiuto di una relazione, il tentativo dell'uomo di cercare quell'assoluto al quale è rimandato in se stesso. Il peccatore è dunque il contrario di quel tu che è tutto, di quell'io che è tutto presso il tu. Il peccatore vuole uccidere l'altro per arrivare ad essere un io. E per questo motivo si arriva alla crocifissione di Gesù, ma, e questo è per Rosmini il contenuto reale del messaggio pasquale, l'amore crocifisso è più forte dell'odio mortale del peccatore. In questo punto il Loretano viene molto vicino alla posizione che Hans-Jürgen Verweyen difende contro Hans Kessler e la posizione di Giuseppe Lorizio nella sua esatta analisi dei passaggi opportuni della Teodicea di Rosmini. La risurrezione anche per lui non è un piano sovrannaturale al di sopra della vita naturale di Gesù, bensì la storia è il palco sul quale l'assoluto si rivela come se stesso, per quello che è. Col fatto che l'uomo Gesù viene abilitato mediante l'autocomunicazione del Dio trinitario a diventare a tal punto relazione, io che è presso l'altro, ovvero amore, che è comunicato comunione con il Padre, comunione con colui che ha la vita eterna, anche nella oscurità della croce non si rompe tutto ciò, per tale motivo egli vince la morte ed è quindi la reale presenza dell'assoluto nel contingente. Giuseppe Lorizio ha mostrato nel suo grande lavoro sulla teologia della storia di Rosmini che il Loretano non ha risposto alla questione della teodicea con una teoria della punizione o del premio al di là della storia, bensì con la tese che la Chiesa nel suo complesso e ognuno in essa, adesso nel mondo e nella storia, può essere attratto da Cristo in maniera sacramentale o non sacramentale, Galati 3,27, che mediante lui, con lui, in lui, ma non senza di lui, divenga soggetto di quel medesimo amore che è più forte di tutto ciò che è senza senso. Per Rosmini la Chiesa è al medesimo livello necessario per la salvezza come l'incarnazione, la croce e la risurrezione di Cristo, poiché il Salvatore collega la propria autorivelazione alla realizzazione di colui che, al quale si dona. Come non c'è una conoscenza del mondo della storia indipendente dal mondo della storia, così non esiste alcun salto al di là della storia verso Gesù Cristo. Al contrario, e questo io che è presso il tu può riceverlo soltanto colui che esce dal suo io nell'affermazione del tu. Perciò l'amore è anzitutto il modo concreto dell'accettazione del Redentore, perché nessun luogo nel mondo della storia l'uomo può allontanarsi più dell'altro verso l'altro del suo di sé se non nell'affermazione amorosa dell'altro come altro. Rosmini formula in maniera pregnante: la grazia del Salvatore viene accolta nel dare. Ogni grazia è mediata da Cristo e Cristo è, come detto, l'autorivelazione storica di Dio. In quanto l'uomo Gesù è in relazione con il Padre in una maniera storica, ovvero nell'assoluta affermazione dell'altro quale altro, egli è l'assoluto